Ma che stronzata? No, questa non è quello giusto. Ritentiamo, saremo più fortunati. Eccoci qua, la musica di sottofondo. Aspetta, così, eccoci qua. Molto bene. E dicevamo, abbiamo la musica di sottofondo. Adesso devi schiacciare quel pulsante lì, tira su tutto, tutto, tutto fino in fondo. Schiaccia il pulsante grigio e adesso parla. Buonasera. Ecco, stavolta sei forte e chiaro, perfetto. Non c'è bisogno che ci stai così vicina. Presentiamo la nostra carissima Cinzia Chen. Come faccio io a descriverti? Chi sei? Io sono Cinzia Chen, che sono venuta in Italia 7 anni fa a fare l'Accademia delle Belle Arti a Torino. Per questo ho conosciuto il grande professore Stefano Pasquini. Ah, e che sarei io il grande professore? E magari. E magari, ma nella mia veste coxica diciamo che non sono proprio un grande professore. Comunque ti ringrazio per il grande, anche se in realtà sono alto poco più di te. Comunque, e poi come mai stasera sei arrivata fino a Bologna, fino in via Zanardi 369? Anzi, aspetta che ti interrompo, 333 180 94 94 se qualcuno ci vuole salutare Cinzia Chen, oppure potete whatsapparci o mandarci sms e noi li leggiamo. Non chiamateci perché non rispondo. Dicevamo, scusa, lo so che tu sei molto paziente con me, anche quando mi aiutavi all'Accademia Albertina. Anzi, ne approfitto per salutare chi salutiamo dall'Accademia Albertina, Cinzia. Che parliamo? Sì, no, dicevo, chi salutiamo dell'Accademia Albertina? Salutiamo Farinella, chi altri puoi salutare? Maria Teresa. Certo, Maria Teresa, Roberto. Bene, no, vabbè, a parte questo, di che cosa parliamo stasera? Qual è il tema della trasmissione? La mia esperienza. La tua esperienza? Dalla Cina in Italia. Dalla Cina in Italia. Non lo so cosa volete voi. Ma in realtà volevo farvi sentire questa cosa che non c'entra niente né con la Cina né con l'Italia né con te. Ma dura poco comunque. Va bene. Forzata? Non ti viene fuori, no, massaggio? Sono troppo serio. Allora, vi do un suggerimento, sei di una radio qua piemontese? No, di Bologna, Radio Città Fujiko. Fujiko, Radio Città Fujiko, cari amici della città. Radio Città Fujiko, una volta siamo venuto a te e sono Fujiko appena in tempo. Che schifo di stupidata che hai detto. Ha detto di dire una stupidata. È una stupidata, è vero. Fantastici. Ciao. Ciao. Grazie. Storia di ragazze demenziali che volevano cambiato l'universo, l'universo che opprimeva le ragazze demenziali. Poi quel giorno l'astronave dei marziani, proveniente dagli spazi siderali, con il tubo che ti aspira nel suo interno, e nessuno che ci crede. E quella sonda che sondava l'organismo ci ha trasformati in musicisti ma maschi. Poi la carriera è andata molto bene, per fortuna. Una storia unica, singolare e atipica, completamente antieconomica, a propulsione enica. Estetica, ma elogiata dalla critica. Ma ogni storia si esaurisce col finale, un finale finale che ti lascia bocca aperta. Dall'ampiezza della bocca si capisce se il finale era valido. Vi salutiamo e vi diciamo arrivederci, come nel film di Stanlio e Ollio, che ridere. Siamo al tramonto, siamo giunti ai titoli di coda di una storia unica, una bella musica, una scelta artistica di origine domestica. Cominciare un programma con arrivederci, insomma, arrivederci, è abbastanza così, un po' cretinetto, del resto noi lo siamo, altrimenti non saremmo coxo spaziale. Questi naturalmente erano le storie tese che io la settimana scorsa ho visto a Torino, davvero fans, sono andato là, mi sono fatto firmare il CD e quant'altro, e poi appunto gli ho chiesto di dire una qualche stupidaggine qualunque e appunto loro me l'hanno fatto, ma così immediatamente dobbiamo saltare di palo in frasca come al solito. Abbiamo arte contemporanea. È andato fuori un po' pianino, magari alfiamo tutto quanto, vabbè, però più o meno siamo lì. E dicevo, è andato un po' pianino, ma stiamo parlando di arte contemporanea, perché da Torino non solo abbiamo trascinato giù a Bologna Cinzia Chen, non solo abbiamo trascinato acusticamente gli Elio e le storie tese, ma abbiamo anche visitato una mostra per voi, ovvero siamo andati a vedere alla Fondazione Merz la mostra di Fatma Bukak, che si intitola So As to Find the Strength to See, che è un titolo non facilissimo da tradurre. Come lo traduci, Cinzia Chen? So As to Find the Strength to See sarebbe così da riuscire a trovare la forza di vedere, giusto? Più o meno, sei italiano. Più o meno, però So As to Find the Strength to See non ha la parola potere, cioè riuscire, nessuno. Comunque la mostra ha inaugurato il 6 marzo ed è a cura di Lisa Parola e di Maria Centonze, e leggo dal comunicato stampa: l'osservazione dell'attuale scenario politico internazionale, nello specifico dell'area mediterranea, e l'urgenza di una riflessione sulla storia contemporanea nascono dalla volontà di Fatma Bukak di affermare con il proprio linguaggio artistico forme di resistenza alla mancanza di diritti e di democrazia in contesti sempre più autocratici, come ben sappiamo. Anzi, ultimamente queste cose non accennano a migliorare, anzi anche nel mondo tra virgolette occidentale diciamo che stiamo prendendo una brutta china. Continuo a leggere: una consapevolezza e una presa di posizione dichiarata a partire dal titolo stesso dell'esposizione So As to Find the Strength to See, promossa dalla Fondazione Merz con la Fondazione Sardi per l'Arte. Fatma Bukak, che è un'artista turca, cresciuta a Istanbul e nata a Iskenderun, una cittadina del sud della Turchia vicino al confine con la Siria, per cui in una mostra del genere naturalmente abbiamo tutto il dramma che stanno vivendo appunto sia i curdi che che i siriani, eccetera. E fortunatamente abbiamo incontrato Fatma, che ci ha raccontato, spiegato molto brevemente, cioè no, ci ha spiegato qualche cosina della sua mostra, che adesso ci apprestiamo ad ascoltare. Schiaccio questo, schiaccio quell'altro. La mostra nasce in realtà da un lavoro che io sto facendo da più di 4 anni, quello di trovare delle narrazioni mancanti, meno visibili, mai narrati, nel mentre costruiamo la storia contemporanea. Come si scrive una storia? Come l'informazione passa? Quali sono le informazioni che rimangono fuori da quei scritti? E perché? Quando succede e che cos'è il processo di questo? Quindi da questa idea di della storia e il scrivere, il ripensare della storia, un po' è nato questa mostra, dove come vedete abbiamo incluso alcuni performance, video, site specifics, un giardino e l'incisione. Vengo anche dall'Accademia, ho studiato all'Accademia, ho fatto l'incisione e quindi vedete anche dei pezzi che fanno parte della mia storia da Torino. Comincerei dal lavoro di fuori che si chiama I Must Savor the Botfir, quello che apre un po' la mostra. È un progetto che nasce in Cairo. È un progetto che io ho preparato, ho cominciato a studiare quando stavo lavorando sulla politica di certi paesi dove la paura si spargeva in società, nella società, in un modo senza i limiti. Le persone cominciavano a non poter parlare, discutere e mettere la censura nel loro discorso, nel loro essere. Partendo un po' sull'idea di come la paura poteva essere rappresentata senza dover dare l'informazione di chi parla e che cosa dice, però nello stesso tempo fa crea questa voce che poi diventa il proprio discorso sulla paura e la paura creata da una politica. Per cui ho cominciato a collaborare con diverse organizzazioni che lavorano sul human rights, diritti umani, e ho fatto un open call nella quale ho chiamato 7 persone di diverse parti della società che hanno voluto partecipare a questo lavoro, dove l'idea era di creare dei workshop uno per uno con ognuno di loro, dove discutiamo sull'idea di come descriviamo, usando degli aggettivi giusti, le nostre paure che nascono da una certa esperienza in una società. Partendo da questi workshop, ognuno di loro arrivava alle descrizioni, proprio degli aggettivi, che costruiva poi l'oggetto, il simbolo, è più vicino a quella paura descritta da ognuno di loro. E quindi ogni oggetto poi diventava un strumento musicale per loro. Da qui nascono 7 suoni. Poi questi 7 suoni vengono composti da noi, con un compositore abbiamo lavorato a costruire poi la composizione che voi vedete e sentite, più che vedete, che si chiama I Must Save the Body. La mostra apre con quello, poi continua con questo progetto che si chiama Enduring Nature of Thought. E l'idea per me era quello, mentre studiavo la storia, ma la storia anche partendo dalla mia, quello che non fa parte del mio proprio paese, ecco, non è accettato, non è parlato, non è spiegato, mi faceva proprio sentire questa... Davo la sensazione che la storia, non essendo completato, specialmente se parliamo quello del contemporaneo, ancora più difficile da narrare, descrivere, scrivere, c'erano delle lacune ma invisibili. E quindi come si può maneggiarli? L'informazione come passa se non lo vediamo? Però visibilmente ci sono delle perdite. Queste perdite lì faceva parte del mio discorso di come moltissime cose moltissime di queste lacune avevano la necessità di essere raccolti. Quindi è un gesto un po', come dire, insistente di dire c'è, ci saranno questi, raccoglieranno anche quelle perdite che non lo vediamo, magari sentiamo solamente. Quindi narrazioni che poi non fanno parte di una storia, narrazioni che rimangono ad essere the others in qualche modo, perché non fanno parte di una politica, di una geografia, e non sono amati tanto, non devono essere descritti in qualche modo. Quale altra trasmissione possiamo passare da Elio le storie tese ai Clash dell'ultimo disco, i Clash dimezzati, anche se devo dire che sto pezzo di quel disco del 1984, se non sbaglio, era assolutamente fantastico, e per poi appunto in mezzo tramezzare con un po' di arte contemporanea, solo su Coxo Spaziale. E il finale è abbastanza particolare di sto pezzo, e stavo guardando lo studio che effettivamente ci sono delle scritte nuove che non, voi siete naturalmente sintonizzati su Radio Città Fujiko 103.1 FM a Bologna, oppure su www.radiocittafujiko.it potete sentire la nostra radio in tutto il mondo. Dicevo che in questo studio sono apparsi dei cartelli che non avevo mai notato, tipo quello di oggi che vedo, canali SAT, e dopodiché mi dice se io clicco su AUX1 posso ascoltare tipo Al Jazeera, fammi vedere, però non ho capito come faccio a cambiare canale, perché no, dov'è il SAT? Comunque proviamo a cliccarlo a vedere se succede, che se mi fa sentire qualcosa di strano davvero. No, non sento niente. Era un falso allarme questo di... Fosse spento il SAT. Comunque fatto sta che io non lo trovo in questo studio, per cui peccato, volevo farvi sentire un po' di Al Jazeera Live così, oppure Al Arabia in inglese o Sky News Arab. Tu lo ascolti, Cinzia, Sky News Arab? No, mai. Purtroppo. Cosa ascolti? Ma tu la vedi la televisione cinese a Torino o no? Come funziona? Tu guardi tutto su internet, giusto? Sì, guardo tutto su internet, però non guardo neanche io. Hai seguito le elezioni politiche italiane? No, neanche. Neanche. Non mi interessa tanto la TV che il programma. Mm-hmm. E le elezioni politiche cinesi le hai seguite? È sempre uguale, che non ci sono le notizie, che tutto che vedi è tutto uguale. È tutto uguale, è un po' come qua, per cui, no? Cioè tutto quello che voti più o meno è tutto uguale, insomma non è che cambi tanto. Cioè adesso io spero che non cambi tanto, poi chissà chi lo sa, per me naturalmente che sono un piccolo scoiattolo politico è difficile pensare che non cambi più niente, però insomma capisco anche la tua noia, molto di sicuro. E diceva, e dunque che cosa mi racconti qua in questo studio, Cinzia Chen, stasera? Allora, se vediamo alle 8:30, magari qualcuno non ha ancora deciso di cenare. Che cosa cenare? Tipo me e te, no? Che non sappiamo ancora che cosa mangeremo stasera. E per questo diamo un po' di voglia a loro. Chi non ha ancora deciso cosa mangiare stasera, diamo un po' di voglia di cucina cinese, magari. Magari un po' di cucina cinese. Già, a me sentirti parlare mi viene voglia di cucina cinese. Ma tu non mangi già la carne. Per cui cucina cinese poca, insomma. No, ci sono tante verdure. Siccome non lo so a Bologna dove si compra le verdure cinesi, però noi abbiamo tantissime. Mm-hmm. Mm-hmm. A Torino si trova tutto, giusto? Anzi, sì, si trovano verdure che non si trovano neanche in Cina. Tipo il cook. No, scherzo. E dunque, che cosa cucini? Se dovessi farmi un piatto vegetariano stasera, che cosa mi cucineresti? Magari spaghetti di soia, mm-hmm, che si trova ovunque, anche ai ristoranti cinesi, che è facile a fare, perché gli spaghetti di soia di solito non si sente niente, non si sente il sapore. Tipo... se non si sente sapore, uno cosa li mangia a fare? No, così si prende il sapore dalle verdure, dai contorni. Mm-hmm. Tipo se tu metti i pesci, senti gli spaghetti tutto di pesce. Ah, ho capito, perfetto. Mm-hmm. E dunque, stasera magari ti farei un piatto di spaghetti di soia, mm-hmm, con le zucchine. Mm-hmm. E magari un po' di gamberetti, però lo mangi. Ma no, che non le mangio i gamberetti, sono vegetariano, mi metti dei gamberetti, scusa. Ma sono buoni. Ma ho capito che sono buoni, anche i tortellini sono buoni, però sono 24 anni che non li mangio e sono pur sopravvissuto, anzi, secondo me sono anche più magro di quanto sarei se non fossi vegetariano. No? Però ti manca vitamina B12, vero? Mi manca, quello te l'ho detto, che mi manca, mm-hmm, la B12, sì. Sai che ho appena letto un articolo scritto che le prematre... Mm-hmm. Non lo so come mi spiego. Non lo so neanche io come ti spieghi, ma va bene lo stesso. È il bello di Coxo Spaziale. Perché le mamme, sì, che non hanno ancora, che non hanno la B12, che non hanno ancora partorito, sì, okay, che hanno ancora i bambini nella pancia, sì, che quelle vegetariane, c'è la mancanza della vitamina B12, soprattutto B12, certo, che contiene sempre nella carne. Mm-hmm. Può causare una malattia, non si può guarire ai bambini, perché i bambini che stanno crescendo, tipo il corpo, il cervello, qualcosa, mm-hmm, serve proprio tantissimo la B12, certo, sì. Ma del resto, voglio dire, basta poi andare in farmacia, comprare delle pastiglie o delle punture di B12 e iniettarsele nelle vene per non far morire i tuoi bambini. Ma cosa gli succede a questi bambini? Perché io ho scoperto che, vabbè, a parte che di questo ne soffro già, ma, mm-hmm, tendenzialmente porta alla demenza, e io direi che sono già su quella strada, ma già da un po', anche probabilmente anche già prima di essere vegetariano. ma di questo stiamo parlando, cioè per cui stiamo facendo campagna anti-vegetarianesimo con me stasera. No, no. Che ti sto convincere di mangiare un pochino di qualche gambero ogni tanto. Ti avevo già detto che mantiene tanto vitamina B12 nelle alghe. Ah, le alghe, sì, certo. Sì. Le alghe, sì, l'alga kombu ogni tanto la metto nella zuppa della strega che faccio per Yumi e Nicola, che saluto caldamente. Mm-hmm. Loro stanno mangiando mentre ci ascoltano, presumo. Poi magari anche no, magari ci aspettano, chi lo sa. Dipende da cosa ci cucini. E dunque, ma queste zucchine, per esempio, come le cucini? Aspetta che però prima visto che stiamo parlando di queste cose, finalmente posso usare questo fantasticissimo jingle. Sushi. Ma sushi non è cucina cinese? Ma questo è un jingle che si chiama Cucina Notturna, poi ci parli sopra. Non ti preoccupare. No, sushi non è cucina cinese, anche se, come tu ben sai, qui in Italia tanti ristoranti di sushi in realtà sono gestiti da cinesi. Com'è questa cosa? Perché i giapponesi hanno di meglio da fare nel mondo che non venire qua a fare del sushi. Già, ci sono tanto di meno i giapponesi al mondo. Ci sono più cinesi, ovviamente. Ovviamente. Poi... sono iniziato in America, secondo me. Sì. Che la cucina giapponese che diventa una moda. Quindi i cinesi. Non in Inghilterra, secondo me in Inghilterra è venuta davvero molto. Però c'è, sì, ti ricordi, c'è un macchi, si chiama il roll, California roll. California roll. È un tipo di sushi che fa tutti i ristoranti giapponesi fuori Giappone. Ah, ho capito. È un po' come gli spaghetti alla bolognese che trovi in tutto il mondo, ma non in Italia, a parte in Abruzzo, ma quella è una regione a sé che, assieme al Molise, praticamente non si è ancora capito se esistono davvero o no. Comunque, dicevamo, ma tu mi hai portato anche della musica cinese, vero? È vero. Cioè, me l'hai portata, nel senso che ce l'hai dentro, adesso non possiamo dirlo, anzi possiamo dirlo, ce l'hai dentro uno Spotify, dentro il tuo iPhone, perché tutti i cinesi devono avere il massimo, devono avere l'iPhone, Spotify, eccetera, non sono open source come Radio Città Fujiko. Infatti non tutti i cinesi conoscono Spotify, perché abbiamo tanti altri strumenti, musica, da ascoltare musica. Ho capito. Allora dunque, sei pronta? Sì, come faccio? Ah, niente, io abbasso questa leva, per cui finiamo di sentire la musica di sottofondo e poi tu vieni qua e intanto che premi play, intanto che tu vieni qua io abbasso questo, come si sente meravigliosamente, e ce l'hai l'uscita? Sì, ok. Attacchiamo questo cavo, prova a premere play e vediamo cosa succede. 这些点许多雨水，夜晚听见窗外的雨声让我想起了南方，想起从前待在南方，许多那里的气息，许多那里的颜色，不知觉心已经轻轻飞起。 我的一次恋爱在哪里？不知他现在怎么样？我家门前的蝴蝶，这是谁还在留恋？时间过得。 adesso intanto ci parliamo sopra. Ma sì, aspetta che devo abbassare in questo modo perché altrimenti eccoci qua. Ma che cosa raccontano questi Dada, si chiamano? Sì, questa band si chiama Dada, è un band. Ah, Dada. Dada. Sì, proprio come dadaismo quello. Ah, ho capito. È una banda di un po' di età che hanno fondato in 1996, mi sa. E questa canzone è uscita nel 2003 o 2004, è una vecchia. Ho capito. Però ascolto molto spesso. Che il titolo si chiama Il Sud, che in cinese vuol dire Nanfang. E parla del tuo paese? No, no, che è un po' romantica, è un po' nostalgica sta canzone, sbaglio? Sì, che è un po' vuoco. Non ho capito. Vuoco. Vuoco? Vocale. Che è vuoco. Ok. E vuoco che lui è di centro della Cina, però la Cina è grande, il centro anche, un può dire anche sud, perché poi per i cantatoni più famosi loro vengono sempre a Pechino, è modo più nord. Quindi questa canzone per dire che uno che lavora tantissimo a nord e un giorno vedo che fuori comincia a piovere come sud, perché in Cina anche come in Italia il sud piove di più, magari è vero che c'è più umidità, invece nord più secco. E questa pioggia gli ha fatto la mancanza di sud. È così, anche io sono di sud della Cina. Poi ora vivo a Torino, nord di Italia. Dice: un giorno andiamo in centro a mangiare la cucina di Chengdu. Ciao Lolli. Lolli ti saluta. Ah. L'avevi conosciuto tu, Riccardo Lolli? No. Ah, ma guarda, pensavo di sì. E invece no, stavo cercando il messaggio che avevo ricevuto prima, perché c'era scritto. Cos'è che c'era scritto? Dopo cosa fa Spotify? Se lo lasciamo andare, lui continua a cantare, giusto? C'è finito la canzone. Ah, cioè è arrivato un dice Ni Hao Cinzia, che però non sappiamo chi sia. Sì, no, forse è qualcuno che ascolta Radio Città Fujiko spesso. E dunque è bella questa canzone, ma comunque siete veramente dei romanticoni voi cinesi, e la musica veramente. Poi, ma questa musichetta poca di sottofondo da dove arriva? La fai tu? No, non ho fatto più niente. E da dove arriva? Magari è arrivato un amico, non vediamo. Ah, no, sai che cos'è? È la musica di sottofondo del mio computer, perché ho staccato la spina e giustamente si sente molto bene. Allora facciamo così, guarda, che stacchi quella e poi magari la mettiamo così la possiamo ascoltare come si deve, e possiamo anche ascoltare Cinzia come si deve, perché sei scappata dall'altra parte dove il microfono è più potente. Faccio un po' di spot. Fai un po' di spot. Che spot mi devi fare? Un po' di sport. Che faccio i giri tra questa distanza. Ah, ho capito. No, infatti pensavo per un attimo pensavo che allora dunque io io stavo pensando che ormai è giunta l'ora, aspetta che faccio una pausa lì, è giunta l'ora di fare questa cosa qua, cosa che tu non conosci, perché no, l'hai mai ascoltata Coxo Spaziale prima di venire qua? No, ho ascoltato tanto. Ah, tanto. Allora ogni volta pubblichi. Se ho tempo, ascolto. Brava. Allora faccio così. L'angolo della menzione. Allora, saprai che in ogni puntata di Coxo Spaziale a un certo punto menzioniamo delle cose da vedere tendenzialmente a Bologna. Questa volta naturalmente vi invito, se per caso andate a Torino, ad andare a visitare la mostra di Fatma Bukak alla Fondazione MERF, ma a parte questo in realtà volevo anche farvi sentire perché stasera alle 6, per cui non l'abbiamo messa nella menzione di oggi perché è già passato, è inaugurata una mostra chiamata Kreti Canova Aiev, la nascita del gusto del moderno tra 700 e 800 nelle convulsioni comunali d'arte, che sembra una mostra noiosissima, in realtà è una mostra fantastica, e volevo farvi sentire un pochino di quello che ci hanno raccontato i curatori, che sono, non trovo più niente naturalmente, eccolo qua, titolo mostra, che sono Massimo Medica e Silvia Battistini. Il titolo della mostra appunto è Kreti Canova Aiev, la nascita del gusto del moderno tra 700 e 800 nelle convulsioni comunali d'arte. Le convulsioni comunali d'arte, come sapete, sono in Piazza Maggiore, inaugurava stasera e sta su fino al 15 luglio, che è una mostra un po' particolare perché in realtà è una mostra dovuta al fatto che alcune delle sale di Palazzo D'Accursio sono in restauro. E mettiamo su questo, spegniamo quello e ascoltiamo cosa ci hanno raccontato brevemente stamattina ieri mattina nella conferenza stampa i due curatori. Scompigliare le carte, rimescolare, vuol dire dare nuove chiavi di lettura, e questa, direi, una delle idee anche vincente che Silvia Mastuzzini ha perseguito è stato proprio quello di creare un nuovo percorso, perché dipinti che magari sono collocati in sale diverse, accostate, creano nuove letture, e la lettura è proprio quella della pittura bolognese e del tramando, perché il museo è luogo di memoria, unisce il ponte col passato, ma offre una chiave identitaria per interpretare il presente, ma soprattutto il futuro. E questo è quello che si coglie. Dal primo dipinto all'ultimo c'è un filo di trapassi, di pittura, di stile, di sensibilità, e questa è la chiave di lettura che Silvia adesso ci approfondirà e racconterà molto meglio di me, e che permette a questo nuovo assetto di essere una vera e propria mostra. Certamente una cosa che terrorizza qualsiasi conservatore è dover movimentare oltre 150 opere, e poi opere di questo genere, sia per le dimensioni che per la delicatezza. Qui abbiamo queste quattro virtù di Donato Kreti, e voi li vedete così brillanti, così affascinanti anche nelle loro cromie, e perché sono dipinte su rado, quindi un materiale delicatissimo, dei pezzi terribili da movimentare. Ora, qui c'è stata una necessità, non abbiamo potuto scegliere di fare questa cosa, siamo stati assolutamente costretti a fare questa operazione per tutelare il nostro patrimonio, sia, come diceva prima l'assessore, il contenitore, perché ovviamente si fanno lavori di miglioria, sia appunto il patrimonio per lasciare agio ai lavori di procedere. E quindi è stato complesso capire come poter mettere insieme, visto che l'esigenza da cui siamo partiti non è stata quella del racconto, abbiamo dovuto adeguare un racconto alle necessità che erano quelle di cantiere. Con questa logica noi abbiamo cercato di mettere in deposito pochissime opere, il meno possibile, quelle più delicate, quelle più grandi, quelle che proprio non c'entravano con questo racconto, ma come dicevamo prima, di tirare fuori delle altre. L'idea è stata questa. In fondo noi nella nostra contemporaneità, dove ribaltiamo tutto e si fa tutto il contrario di tutto, in realtà noi non facciamo altro che smontare quello che si è andato a definire nel nostro gusto, nella nostra coscienza, in questi secoli 700 e 800. Per cui vedere effettivamente come si è evoluta la pittura, ma non solo, abbiamo esposto anche sculture, e c'è una sala dedicata, l'abbiamo chiamata il Salotto dei Rusconi, una delle sale dell'Ala Rusconi solitamente allestite, prevalentemente con arredi del Settecento, ma che in realtà ingloba anche materiali seicenteschi e ottocenteschi, quindi per dire che effettivamente in una quotidianità poi le cose si sommano, esattamente come nelle nostre case. Quindi il fatto che noi siamo figli di qualcosa che viene prima, e che queste cose, anche se non ce ne rendiamo ben conto, le abbiamo negli occhi, è stata un po' l'idea che ha suggerito questo riallestimento. Naturalmente noi giochiamo facile, perché abbiamo dei capolavori, non solo Kreti, abbiamo dipinti di Crespi, di padre e figlio. Abbiamo anche dipinti di artisti poco noti che si possono, quando si possono ammirare da vicino, si capisce la qualità, la bellezza di queste opere. E quindi, avendo una quadreria di questo genere, veramente si potevano raccontare tante cose. E eccoci qua. Dicevo, mi chiede Luca Ballini, no scusate, questo non c'entra assolutamente niente, questa mostra non si capiva tanto da quanto sono riuscito a tagliuzzare all'ultimo momento oggi pomeriggio. Dicevo, c'è un AIEF meraviglioso che ho postato sul mio Instagram e poi metterò domani su www.coxospaziale.blogspot.com assieme a tutto quanto, tutte le informazioni di questa mostra, e poi ci sono due canova. C'è un canova di terracotta che non avevo mai visto, fra l'altro. Effettivamente era un sacco di tempo che non andavo alle collezioni comunali d'arte di Palazzo D'Accursio, e vi invito caldamente ad andare a vedere questa mostra, perché malgrado in realtà alcuni quadri probabilmente li avrete già visti, veramente merita. E poi il biglietto d'ingresso è solo 5 euro, 3 euro ridotto gratuito per Card Museum, Musei Metropolitani di Bologna, e la prima domenica del mese, per cui assolutamente non mancate di andare a vedere questa mostra che sta su fino al 15 luglio, per cui avete un bel po' di tempo. Invece nella mia bacheca c'è scritto: Luca Ballini mi posta, che ne pensi dei ready made? E questo l'ha fatto 7 ore fa, me ne sono accorto solo in questo momento, non so bene perché. Cinzia, che ne pensi tu dei ready made? Non ti sconfinferano? Adesso dovrò fare tutto un bel discorso serissimo invece dell'importanza dei ready made, perché i ready made da Duchamp a Merrey e a Schwitters e quant'altro hanno effettivamente cambiato il corso della storia dell'arte, ma non vogliamo parlare di questo. Un'altra mostra che ho visto questa settimana è Vivian Maier a Palazzo Pallavicini, Palazzo Pallavicini in via San Felice, e di questo ve ne parlerò la settimana prossima, perché effettivamente è una mostra che ha bisogno di un attimo di soffermarsi un attimo, e visto che probabilmente la settimana prossima, come al solito, Fedra mi abbandona e io sarò bello in giro per Torino a registrare Coxo Spaziale, quando mi fermo un attimo seriamente, perché ogni tanto ci riesco anche a focalizzare per un momento un minimo di serietà, e Cinzia ride giustamente, magari riusciamo a fare anche un discorso un po' serio su Vivian Maier, che è una mostra veramente, veramente anche quella merita di essere vista, e anche quella sta su per un po' di tempo. Detto questo, invece, giovedì prossimo, 22 marzo, alle ore 18:30, tutti al Mambo per You Are Here. You Are Here di premiata ditta, che sarebbero Anna Stuart Tovini e Vincenzo Chiarandà, quelli che gravitano nel mondo dell'arte contemporanea, soprattutto degli anni 90, li conoscono sicuramente, erano i fautori del sito andu.net. È un dispositivo artistico articolato, è in primo luogo una conferenza performata che i due artisti terranno al Mambo giovedì 22 marzo 2018 alle ore 18:30, e anzi li ringrazio per averlo fatto di giovedì, visto che sono in città. Ma soprattutto You Are Here è l'ideazione di una forma di condivisione che riguarda la proprietà di un'opera d'arte, un processo che si realizza grazie al coinvolgimento di un insieme di coproprietari e al ruolo attivo del museo. Vi lascio con questa suspense, perché dovrete venire a sentire questa conferenza performata. Questa è al Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, in via Don Minzoni 14, ed è giovedì prossimo alle 18:30. Scusate, no, alle 18:30. Invece, sempre giovedì alle 20:30, dovrete correre al Circolo La Fattoria in via Pirandello 6 a Bologna per un'altra conferenza che forse ad alcuni interessa di più, ad altri interessa di meno, e si intitola Il tradimento nel terzo millennio, per sesso o per amore, a cura della nostra amica la dottoressa Maria Letizia Rotolo, psicologa e psicoterapeuta che abbiamo avuto ospite un paio di volte qui a Coxo Spaziale. Leggiamo: il tradimento di coppia in genere rappresenta a volte, più che la ricerca di un'evasione sessuale, una risposta a un generico senso di insoddisfazione nel rapporto, soprattutto coniugale. fedeltà può dare luogo a due tipi di sentimenti diversi: delusione e rimorso verso il partner abituale, oppure senso di soddisfazione psicologico e sessuale, tant'è vero che in alcuni casi l'esperienza occasionale riesce perfino a influenzare positivamente l'esperienza abituale. Questo è al Circolo La Fattoria, giovedì 22 marzo alle ore 20:30 in via Pirandello 6 a Bologna, e naturalmente se andate su www.marialettizialotolo.it o domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete tutto per quel che riguarda anche questa serata. E abbiamo finito le menzioni e possiamo concentrarci, gli ultimi 5 minuti di trasmissione, possiamo finalmente concentrarci sulla nostra ospite Cinzia Chen. Cos'altro? Finalmente. Cos'altro fai tu nella vita, Cinzia? Allora, ufficialmente direi che sono la curatrice d'arte contemporanea. Ufficiosamente invece fai tante altre cose. No, vabbè. Certo. Allora, volevo presentarvi un artista cinese che fa soprattutto performance art, anche un grandissimo professore dell'Accademia dei Belle Arti in Cina, che lui ha fondato il corso di performance art. Ho capito, performance che art. Che ha creato un sacco di, diciamo, un po' di critico a dire, perché performance art non è stato sempre un corso molto formale nelle accademie cinesi tradizionali. Invece lui prima faceva pittore, poi ha scoperto questo modo di esprimersi in modo diverso, molto speciale, quindi si è trasferito. Come si chiama, scusa, questo pittore, questo artista? Scusate, si chiama Zhou Ping. Zhou Ping. E come si scrive Zhou Ping? Si trova questo nome molto comune. Se tu cerchi su internet vengono tanti altri uomini con questo nome. Però se tu cerchi Zhou Ping, Zhoubin, con artista performance. Artista così performance, okay. Trovate precisamente lui, che è bravissimo, che 3 anni fa anche è stato invitato da Maxi a Roma a fare un performance. Ci sei andata a vederla? No, a quel momento non lo conoscevo, però dopo quella performance lui è venuto a Torino a partecipare a un altro festival di performance art a Torino, e per questa occasione ci siamo conosciuti. Ah, com'è? È simpatico? Molto simpatico. Simpatico quasi quanto Fuga per Art, che ci saluta e si era dimenticato di Coxo Spaziale e sta ascoltando giusto gli ultimi 5 minuti. Allora, questo artista che dicevo verrà a aprile in un paesino di Nione che si chiama Macon. Conosco Isabelle Gillier là. Per anche un festival oppure un qualche evento di performance art per un messedo lì. Quindi stiamo cercando qualche gallerista oppure qualche amico caro ci può dare aiuto per invitare questa artista venire in Dania. Allora lo scrivo a Giffo: ci puoi dare aiuto a questo artista venire in Italia? Basta per tipo un viaggio. Quanto ti serve? 1000 euro? No, 100, 200 al massimo. 200 euro. Dai, smolla Giffo, smolla 200 euro che abbiamo bisogno di vedere Zhou Ping in Italia. Dove lo portiamo? A Torino o a Bologna? Cosa facciamo? Possiamo pensare. Comunque lui è molto bravo. Anche 2016 a Chengdu, che è una città molto storica, Chengdu, molto importante in Cina, dove anche lui vive, ha fatto la prima mostra personale di un artista di performance art del mondo, la prima mostra del mondo. Concentra su uno solo artista di performance art. Ho capito. In un museo di arte contemporanea di Chengdu. E questa mostra sono stata. Purtroppo siamo arrivati alla fine di Coxo Spaziale, sono le 20:59, siamo già in ritardo E cosa te, cos'altro mi vuoi raccontare, Cinzia? Hai 3 secondi e mezzo, a parte gliene do 800, se ne sta a casa, risponde Giffo, dice che ti dà 800 euro a Ciao Ping se rimane a casa. Cosa ne dici? Va bene, no? Va bene, va bene. Allora adesso Giffo, ti mandiamo il nostro PayPal, tu metti gli 800 euro lì e noi teniamo Ciao Ping a casa, anzi a Macon Kong, così può rimanere lì bello come il sole e non c'è nessun problema, giusto? Bene, vedi? Ci sta, anche con questo 800 euro magari andiamo noi a Lione. A Macon, esatto, ecco. Eh sì, certo. Molto grazie. Bene, grazie. E dunque, che dire, cos'altro possiamo dire? Questo è stato Coxo Spaziale, il tempo come al solito quando si è in radio vola, che è una roba che non ci si crede, e dunque l'unica cosa che posso fare è questo. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Quindi non c'è più la seconda canzone cinese? Non c'è più la seconda canzone cinese. Come facciamo? Facciamo così. Ciao Cinzia, grazie per essere venuta a Coxo Spaziale. Grazie a voi. Ciao ciao. Ciao. Problemi andare fuori. Questo naturalmente è Riccardo Lolli, che salutiamo. Il bianco e anche il nero che sfinisce. Ho l'auto che tossisce, la revisione, il revisionismo, sulle rotonde troppo terrorismo, ed io ci giro, io ci resto. Il giorno dopo devo alzarmi presto, per essere più molesto, perché mi alzo presto, sono autoalimentato, ho attivato il moto perpetuo. Non vengo, non esco, non ci vengo, tu insisti. Ascoltato Coxo Spaziale. Tra impegni per la stessa sera, ma io non esco fuori.